direi che possiamo iniziare con la nostra serata. Ringrazio il pubblico che è giunto numeroso alla nostra iniziativa, nonostante il tempo non sia favorevole, visto che piove a dirotto, mi dicono ancora. Forse qualcuno arriverà in ritardo proprio per questo motivo. Ringrazio i nostri ospiti, che sono appunto il professor Massimo Brunghisini e Rosanna Ghedina, che è giornalista, è già stata nostra ospite qui in biblioteca. Presenteremo questo libro, Drawdown, il piano più completo mai proposto per invertire il corso del riscaldamento globale. Un progetto appunto di Paul Pocken e racchiude tantissimi progetti di indicazioni per così non disperdere, lo dico in maniera molto sommaria, visto che poi la serata ci sono i nostri ospiti che ci spiegheranno di cosa si tratta. Ecco, l'obiettivo è quello di garantire la sopravvivenza della casa comune e soprattutto di andare anche, probabilmente ci sono delle convergenze straordinarie con quella che è poi che sono gli obiettivi dell'ONU, i famosi 17 obiettivi, nei quali la cultura si inserisce come parte fondamentale per garantire la sostenibilità della vita sul nostro pianeta. Per questo anche quando a suo tempo, alcuni mesi fa, Margherita De Thomas, che è qui in sala con noi, e Francesca Witzmann erano venute in biblioteca a presentarmi questo progetto, l'abbiamo accolto con grande favore, e questo per me è anche il sintomo positivo che la biblioteca offre, ma nello stesso tempo riceve. È una così, collabora ed è una co-creazione con il pubblico, questo di avere degli appuntamenti sempre interessanti, sempre attuali, come quello di questa sera. Quindi lasciatemi ringraziare appunto Margherita De Thomas e Francesca Witzmann per questa splendida occasione di avervi qui con noi e di sentirvi raccontare e parlare di questo progetto, che ha appunto anche poi una sede, un'attuazione qui in Italia, e infatti il rappresentante, il referente è proprio seduto qui con noi questa sera. La biblioteca, come sempre, quando organizza questi incontri vuole offrire degli spunti di lettura, quindi a parte chiaramente il libro che verrà presentato questa sera, abbiamo anche una bibliografia per ampliare, per vedere, per conoscere meglio il tema che viene proposto o alcuni degli aspetti. Segnalo poi infine due cose: giovedì dalle 15.30 fino alle 16.30 ci sarà il solito corso gratuito per imparare ad usare la piattaforma digitale e scaricare l'ebook anche da casa o col proprio smartphone, e sempre in quella serata, però alle 18 nella sala, avremo una conferenza Suono Ambiente, Ascolto il tuo cuore, città, ad opera di Claudio Chianura, sempre collegata con la mostra che è attualmente visibile al piano Menomare. Lascio la parola ai nostri ospiti, vi ringrazio ancora e vi invito a tornare a trovarci e a prendere anche i libri in prestito della biblioteca. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie alla dottoressa, la responsabile di questa biblioteca, grazie a Francesca e a Margherita e naturalmente all'ospite qui d'onore oggi, grazie. Massimo Brunghisini. Grazie. Massimo Brunghisini è venuto anche a Cortina, l'abbiamo invitato a presentare quest'opera, che è molto importante. Molto importante perché non, su questi argomenti non si resti sempre solo sulla parola, sul sentito dire, sul fermarsi a fare solo delle... ma proprio per incominciare a capire cosa si può fare veramente per l'ambiente, per la nostra casa comune. Allora, Drawdown è semplicemente un libro molto importante che già in America è un best seller, è già libro mi dice il traduttore, è già libro delle scuole? Le scuole, sì, libro di testo, molto importante. Ecco, due parole sul nostro ospite, Massimo Brundisini, laureato in medicina e chirurgia all'Università di Pisa, nell'80, e fa il traduttore di libri scientifici, una cosa molto importante e anche un passatempo molto impegnativo. Sì, ma quando trovo dei testi che, insomma, che ritengo importanti, penso che sia utile, insomma, certo. Poterli diffondere, cioè, non... penso che siano appunto... Questo è proprio un grande importante testo che qui in Alto Adige l'avete già diffuso o è adesso che lo... Allora, no, è la prima volta. È la prima volta? Sì, sì, sì. Diciamo che io vivo a Bologna. Adesso decollerà, per cui, allora. Per cui, sì, beh, speriamo. Siamo, sì, più sono a Bologna, per cui lì c'è state varie presentazioni. E io mi sono trovato appunto a fare questo tipo di cosa che non rientra nelle mie normali attività, però insomma ritengo sempre che possa essere utile, poi viene apprezzato per fortuna. Quindi. E poi lui è stato candidato anche nelle liste verdi, forse qua è proprio il suo interesse. Assolutamente sì, vero? certo. Sì, sì, diciamo che posso anche dire che all'inizio c'è stato anche un appoggio da parte dei Verdi per questo testo, perché si è riconosciuta appunto l'importanza. Io, avendo fatto solo la traduzione, ma il lavoro grosso l'hanno fatto altri, e davvero penso che sia stato un lavoro encomiabile, perché ci sono 200 ricercatori di tutto il mondo e nel loro ramo sono, diciamo, Polokhin è riuscito a individuare quelli che sono i maggiori esperti di ogni varia soluzione che è stata trovata, quindi è stato fatto un gran lavoro. Sì, è un libro molto impegnativo al quale hanno collaborato 61 ricercatori. Anche di più? 200. Sì, sì. Poi 9 saggisti. E sì, anche 28 finanziatori, perché altrimenti non sarebbe arrivato dove è arrivato. Infatti, sì. E i temi, e questo autore, Paolo Hofken, è ritenuto un grande personaggio nell'ambiente proprio in questo tema in America, tanto che è stato anche apprezzato molto dal presidente Clinton, sì, no? Sì, certo. Che l'aveva definito il più grande ambientalista numero uno. È vero, sì, è anche un sociologo, insomma, è molto impegnato nel cercare di migliorare, insomma, la vita su questo pianeta, quindi... Ed ha fatto un lavoro, diciamo. E mi sembra anche che ha voluto, ho visto qui nel libro, questo progetto editoriale che, come è stato detto, è il piano più completo mai proposto per invertire il corso del riscaldamento globale. Ecco, sì. Cosa può dirci? Tanto per definire questo riscaldamento globale, è perché vengono usate le tecnologie e i mezzi inadeguati, cioè sì. Per l'uso che se ne fa? Sì, allora quello che si può dire, insomma, che è un po' attualmente quello che pensano la maggior parte degli scienziati, è che c'è stato un picco di innalzamento delle temperature. Scusate. Sì, perché bisognerebbe prenderlo in mano. Proviamo così. Ecco, va meglio. Sì, scusate. Quindi c'è stato un picco di innalzamento delle temperature a partire inizio del secolo scorso. Quindi una crescita veramente veloce che non c'era mai stata e viene attribuita fondamentalmente in gran parte all'uso dei combustibili fossili, di cui sappiamo benissimo di fare un grandissimo uso, di milioni di barili di petrolio che tutti i giorni vengono consumati, sembra, insomma, che contribuiscano appunto a questo innalzamento delle temperature e soprattutto ad un aumento di quella che è la quota di anidride carbonica, che è rimasta ferma a circa 300 parti per milioni per 800 milioni di anni e adesso supera abbondantemente i 400 parti per milione, continua a salire in maniera esponenziale, non è una salita lenta ma abbastanza veloce, ecco. E nessuno è in grado di dire quali tipi di cambiamenti potrà portarci. Però possiamo tutti quanti vedere che ci sono dei cambiamenti intorno a noi, a cominciare dal fatto che appunto non ha nevicato tutto l'inverno e nevica adesso, in Australia hanno altri problemi, al Polo Sud, in Antartide, ci sono 20 gradi e quindi i poveri pinguini hanno altri problemi, può darsi che sia un caso, non lo so, comunque secondo me l'idea è quella di cerchiamo di fare qualcosa comunque. Anche perché le soluzioni non sono soltanto indirizzate a risparmiare l'anidride carbonica, cioè a ricatturare l'anidride carbonica, perché poi devo spiegare il perché del termine drawdown, cosa significa e perché l'abbiamo lasciato in inglese. Drawdown, posso dirlo, certo. Ecco, è il, viene usato per una serie varie per indicare vari valori, anche valori azionari, valori di vario tipo. In questo caso il drawdown viene indicato come il momento in cui si raggiunge il picco di produzione di anidride carbonica e da allora comincia a discendere, e possiamo raggiungere questo picco di produzione se noi cambiamo un po' i nostri modi di vivere, sì. Il progetto è stato proiettato fino al 2050. Quindi dal 2020 al 2050 sono fatti dei calcoli per vedere, possiamo anche vederlo dopo con le diapositive, sì, quante saranno i miliardi di tonnellate di anidride carbonica che verranno risparmiati e di conseguenza dovremo avere un abbassamento delle temperature o perlomeno bloccare l'innalzamento. E questo è un po' il fine del libro. E questo progetto editoriale mira anche, ho visto, ad un assioma molto importante, cioè passare all'azione, no? Passare all'azione per risolvere. E il si può e subito, certo, e tutti insieme. Questo è molto bello perché è una cosa che ci coinvolge tutti. Certo, certo. E poi questa edizione mi sembra impreziosita ulteriormente da delle prefazioni e postfazioni di nomi molto importanti. Allora abbiamo Vincenzo Balzani, poi abbiamo anche Michele Ratzinger, questo dei Stefano Boeri e quello dei boschi verticali nelle costruzioni, e poi soprattutto c'è Nader Butto, che è un grande personaggio che stimiamo tutti molto, credo. Ho visto che Nader qui mette l'accento sul fatto che lo stato di salute non è una cosa da riferirsi soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista olistico, o comunque compresa la nostra natura, che è formata da un corpo fisico e da un corpo spirituale. Quindi tenendo presente questa realtà, cosa ha portato di... Poi ha parlato della ciclicità, che è molto importante anche questa, e si rifà in Maya per spiegarla. E infatti tutte queste cose che ci stanno succedendo sembrano che siano cicliche, cioè ogni 7 anni, ogni 40 anni, i famosi 40 anni della Bibbia, voi sapete, i 40 anni del viaggio degli ebrei per arrivare alla terra promessa, poi i 40 giorni della tentazione del deserto di Gesù, insomma i 40 che si ripetono noi adesso nella Quaresima, no? Quindi questa ciclicità, cosa è importante? Ma, sì, secondo gli studiosi... Secondo alcuni studiosi sì, diciamo che può avere una componente, può essere una componente, quindi, di famosi poi sono anche i ricorsi della storia, eccetera. Sicuramente... Anche per non spaventarsi. Ecco, lì si può dare più speranza, dice, vabbè, adesso va un po' così, ma dopo, tanto ritorniamo alla normalità. Speriamo, sì, ecco, tutti siamo... Volevo dire riguardo alla presentazione, perché sono quattro prefazioni, appunto, c'è anche il professor Segre di Bologna, che diciamo che qualche giorno fa era sempre in televisione perché quello che ha istituito la giornata contro lo spreco alimentare, quindi sì, è stato proposto. Lui. Appunto, tra l'altro, fra le soluzioni individuate nel libro, evitare che ci sia uno spreco alimentare è ai primi posti, assieme alla dieta vegetariana e ad altre cose. Quindi rientra appunto nei nostri comportamenti, che nel momento in cui, come dei comportamenti personali, nel momento in cui cambiano, possono dare un grande contributo. E quindi diciamo l'altro che abbiamo citato prima, il professor Boeri, Stefano Boeri, ecco, lui fa una presentazione ed è stata fatta su richiesta specifica di Paul Hawken, perché sono amici. Ed eventualmente adesso lui fa sì i boschi verticali, diciamo, questi grattacieli completamente verdi, ce ne sono due o tre a Milano, però attualmente li stanno commissionando delle città verdi, delle foreste, delle città foresta, anche di 120.000 abitanti, ce ne sarà una a Cancun in Messico, quindi è un qualcosa... Mancando il terreno fra una casa e l'altra per fare dei parchi, se questo geniale si è inventato questi giardini sui balconi praticamente. Sì, tutto sono degli accorgimenti particolari, hanno dovuto studiare per anni delle piante che potessero... Che le piante portano appunto... Soprattutto in area urbana, tant'è vero che adesso ci sarà un eventualmente, il professor Boeri, che è anche il presidente della Triennale di Milano, ha organizzato a novembre un congresso mondiale sulle foreste urbane. Sì, è stata una roba molto interessante, erano presenti esperti da tutte le parti del mondo, c'era il direttore dei giardini di Kensington a Londra, c'erano neozelandesi e australiani. E quello che sono riusciti a fare a Milano, stati bravi e andrebbero appunto in qualche modo così seguiti nella loro azione, è quella di proporre di piantare 3 milioni e mezzo di alberi, quindi un albero per ogni abitante, ma loro oltre a proporlo hanno anche trovato i fondi. E hanno trovato i fondi e diciamo la cosa bella, la cosa positiva è che c'è stata una sinergia fra pubblico e privato. Il pubblico, che sia comune, provincia o regione, indipendentemente dai colori politici, sono tutti d'accordo. Il privato, c'è stata l'Enel, la nostra fondazione Falk, e sono riusciti ad avere sì l'idea, ma anche a trovare i fondi. Quindi sono i primi in Italia. Molto importante. Sì. Anche perché a livello urbano è verde. Molto importante per mille motivi, senza insomma, certo, sono stati spiegati, ma anche per quel che riguarda la salute, al di là del discorso dell'assorbimento della CO2 o l'ossigenazione. Bene, poi i temi che tratta questo libro sono l'energia, come è prodotta, si parla di tanti modi. Mi ha molto colpito quella delle onde, l'energia delle onde. E poi, e poi anche c'è un tipo di pavimentazione che si può mettere nelle città o intorno a casa propria, che producono energia e bastano 3 metri per 6 che già producono l'energia necessaria per una famiglia. Perché non si fanno queste cose? Perché appunto sappiamo adesso pian piano che ci sono delle motivazioni, probabilmente di interessi che in qualche modo insomma non vogliono essere toccate. Insomma, chi vuole che l'energia sia prodotta dal petrolio non è d'accordo sul fatto che magari avendo una casa, un edificio a impatto zero, insomma, poi non si debba, anzi, molte volte gli edifici a impatto zero riescono non solo a essere autonomi come energia, ma anche a poterla ridistribuire in rete. Infatti nel libro molte soluzioni sono appunto riguardano le reti di distribuzione dell'energia, che diventa quindi qualcosa di diverso, cioè ciascuno ha la capacità di produrre la propria energia e addirittura di rimetterla nel circuito, vendendola, e quindi non solo non ha costi, ma c'è anche un guadagno, e quindi questa cosa da cui può anche non andare bene, quindi mettiamola così, fondamentalmente. Ma noi qua in Italia ci siamo abbastanza liberati dalla fonte del carbone, mi pare, no? Però da quella del petrolio non si riesce a uscirne per gli interessi che tanta tecnologia ormai è industria, è basata su questo, su questa fonte. Ci si riuscirà adesso con questa crisi che c'è stata al sud lì con l'Ilva? Cosa comporterà? Sì, diciamo, vabbè, io sono ottimista di natura, per cui dico sicuramente riusciremo. Farei vedere qualcosa, perché ecco, direi proprio di passare alla visione. Tutte queste domande ottime sono in qualche maniera, certo, siamo già incontrati. Sì, sì. Allora, diciamo così, più che presentare il libro abbastanza velocemente, cercherò di presentare quello che è il contesto. Cioè, può spiegare il titolo? Anche se in una maniera bestiale, è già inquinato il titolo con questa lingua. Assolutamente sì. No, c'è un motivo, ha ragione lei, c'è un motivo. Il titolo ha dovuto rimanere così perché è un progetto mondiale, quindi il libro è stato tradotto in francese, olandese, tedesco, portoghese, ma è rimasto Drawdown. Ecco, adesso glielo spiego, adesso sto arrivando. L'ho detto prima, comunque. Ha ragione, glielo dico velocemente, arriva subito nel diapositivo. Quindi il Parlamento europeo ha dichiarato l'emergenza climatica, e quindi partiamo da qui, cioè esiste ufficialmente un'emergenza climatica. La COP25 di Madrid purtroppo non è andata a buon fine, si spera nella prossima, che ci sarà in Inghilterra, e il segretario delle Nazioni Unite ha detto: la scelta è tra speranza di un mondo migliore o la capitolazione, quindi diciamo siamo di fronte a un bivio. E quindi lui ha detto anche, ha fatto una domanda ai 200 paesi presenti: vogliamo restare nella storia come generazione di struzzi che passeggiava mentre il mondo bruciava? Insomma, è stato molto diretto. Questo molto brevemente è il Forum Mondiale di Milano di novembre, fatto dei lavori davvero interessanti, importanti. Questi sono i boschi appunto verticali di Stefano Boeri, e questa è una città foresta in Cina, e questa è la città, la chiamano la Smart Forest, cioè la città foresta intelligente di Cancun in Messico. Questo è l'architetto Boeri, e sempre faccio, diciamo, vado un po' cercando di inquadrare tutta la situazione al di là del libro, che è un mezzo, ma è importante inquadrarlo. Quindi sempre a Milano, in occasione del Forum Mondiale sulle foreste urbane, il professor Boeri, che è quello lì a destra, ha lanciato la proposta accanto a Carlin Petrini, che penso conosciate, il presidente di Slow Food, sì, non so, sì. Ecco. Proposta di piantare in Italia 60 milioni di alberi, cioè un albero a testa. A Milano sono partiti con i loro 3 milioni e mezzo di alberi. La cosa che mi ha colpito del libro, e che quindi poi insomma in qualche modo ho ricollegato alla situazione sul territorio, è questa: che Carlin Petrini, oltre ad essere presidente di Slow Food, è anche il coordinatore nazionale delle comunità Laudato Si, cioè sono delle comunità che si propongono di mettere in pratica, ognuno nella sua città, nel suo paesino, quelle che sono le indicazioni dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Qui infatti vediamo il logo della comunità Laudato Si e il logo di Slow Food insieme. L'obiettivo è salvare l'ambiente, cambiare la società, e questa è la proposta fatta assieme a Stefano Mancuso, uno scienziato penso abbastanza conosciuto sempre in TV ultimamente, scienziato delle piante, che è stato definito uno dei 20 scienziati che può possa fare il pianeta per le sue conoscenze, e quindi si propone di piantare 60 milioni di alberi in tutta Italia, e quindi appunto Milano sono avanti nel loro progetto. Questa è la Presidente della Commissione Europea, la Ursula von der Leyen, che ha proposto di investimenti a partire da in Europa per 1.000 miliardi nei prossimi 10 anni per l'ambiente. E questa è una cosa molto recente, a proposito di quello che si può fare, di quello che volevamo fare. Ecco, è una cosa concreta, diciamo, si chiama Manifesto di Assisi, un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica. È del 24 gennaio, quindi di un mese fa circa. Manifesto di Assisi vuole cambiare il mondo. Firmato, qui se si legge, dal Presidente della Confindustria, dal Presidente della Coldiretti, dall'amministratore delegato del gruppo Enel, e firmato anche dal Presidente del Consiglio. Chi vuole lo trova facilmente nel sito appunto dei Frati Francescani, e questo è il manifesto, che non leggo tutto perché è abbastanza lungo, lo trovate facilmente, comunque leggo giusto per, diciamo, un po' chiarire quali che sono gli obiettivi che si sono posti. Leggo solo le parole in maiuscolo, in grassetto: coraggio, futuro, partecipazione, enciclica, l'ho dato sì, sfida, economia circolare e sostenibile, green economy, bellezza, comunità, coesione sociale, empatia, sono tutte belle parole, insomma, ecco. Poi si riusciremo a mettere in pratica, sta a noi, ecco, dipende da tanti fattori. E sfida la crisi climatica e per avere un mondo più sicuro, civile e gentile. Quindi questo è un qualcosa di concreto, chiunque può firmare questo manifesto di Assisi, e quindi più persone ci sono, più si spera che possa avere efficacia. Questo è il retro, ecco, quando voi chiedete il retro della copertina del libro, dove ci dice appunto, è stato definito il libro la risposta della scienza, l'enciclica Laudato Si, sulla cura della casa comune di Papa Francesco. 200 ricercatori di tutto il mondo propongono 100 soluzioni per risolvere la crisi climatica. Questa è una frase appunto di Polo, che spiega, subito dopo viene la spiegazione di Drodal, spiega cos'è, perché è nato il progetto. Lui dice che per la prima volta in assoluto una coalizione internazionale di ricercatori si è unita per offrire una serie di soluzioni realistiche e avanzate ai cambiamenti climatici. Tutte le tecniche descritte nei vari settori, energia, alimentazione, donne e giovani donne, sarebbe la pianificazione familiare, edifici, città, uso del suolo, trasporti, materiali, sono economicamente valide, e comunità in tutto il mondo le stanno già attuando. Se distribuite collettivamente su scala globale, nei prossimi 30 anni potrebbero rallentare il riscaldamento della Terra e anche raggiungere il drawdown, che era quello che voleva. Il punto in cui i gas serra nell'atmosfera raggiungono il picco e iniziano a ridursi. Quindi indichiamo con questo termine quel momento lì, drawdown. Alla fine è un termine chiaramente poco chiaro, poco usato, ma io spero che diventi un tormentone, cioè, diciamo, se diventa davvero un progetto che viene diffuso in tutto il mondo, ecco, allora si può sperare, insomma, che possa avere efficacia. Dipende un po' da tutti quanti i punti di azione. E poi riteniamo il riscaldamento globale non come una inevitabilità, ma come un invito a costruire, innovare, a fare cambiamenti, un percorso che risveglia la creatività, la compassione e il genio. Questa è l'agenda umana, che se colloca, quindi cosa aspettiamo? Ecco, quindi lui ci esorta, ha fatto un gran lavoro, è il motivo per il quale ho pensato bene che insomma si potesse in qualche maniera riprenderlo. Quindi il termine drawdown, o abbattimento o diminuzione, è convenzionalmente usato per descrivere la riduzione delle forze militari, dei profitti da capitale o dell'acqua dai pozzi. Qui lo usiamo in riferimento alla riduzione della quantità di carbonio nell'atmosfera. C'è un motivo ancora più importante per l'uso della parola drawdown. La parola drawdown indica un obiettivo che è stato finora assente nella maggior parte delle conversazioni sul clima. Adesso, per farla breve, lui dice rallentare le emissioni o eliminarle è importante, ma quello che è più importante è ricatturare l'anidride carbonica, cioè se rallentiamo e basta, è come guardare il film Thelma e Louise al rallentatore, alla fine insomma la macchina va sempre di sotto, per cui non cambia molto. E quindi il libro è la base di un progetto mondiale, il Project Drawdown, c'è il sito, tradotto in Francia, Germania, Olanda, Brasile, pubblicato in 13 paesi, in America l'11esima di stampa, anzi adesso è la 15esima di stampa, ed è presente nelle scuole, come si diceva prima. Sì. Ecco. E niente, addirittura la catena alberghiera Sky City l'ha messa in ogni stanza al fianco della Bibbia. Vabbè, per lo speaker vado in giro a tutto il mondo a parlare di questo testo. È un messaggio che si basa sulla scienza e anche un testamento per il crescente flusso di umanità che capisce l'enormità della sfida che affrontiamo ed è disposta a dedicare la propria vita per un futuro di gentilezza, di sicurezza e di rigenerazione. E adesso faccio vedere i vari testi, questo è quello inglese, questo è olandese, non si capisce un granché, però Drawdown rimane qua. Questo è quello francese, che ha fatto un lavoro, insomma, un po', ha cambiato un pochino tutto, ma questo è quello tedesco, questo è quello in portoghese, brasiliano, e questo, quello, secondo la sinistra, è Polucche, insieme a dei brasiliani, entusiasti, insomma, del libro, e quindi, insomma, mi è piaciuto, ecco. Questo è il libro, sempre Drawdown, sulla scrivania di Macron. Lui ce l'ha ancora in inglese, anche se i francesi non amano i testi in inglese. Questo è il signore che ha messo appunto l'amministratore delegato della Sky City Hotel, che ha messo il libro in ogni stanza. Questo l'ho preso casualmente l'altro giorno in TV. Questa è la professoressa Ilaria Capua, una delle più grandi esperte al mondo sui virus, che adesso vanno di moda. E l'hanno intervistata più volte. Più volte. E dietro sulla scheda di Chad Rodown. Quindi è una curiosità, insomma. Ecco qua. E quindi, vabbè, il libro va sotto i campi delle attività umane. Per ogni proposta viene indicato quanti miliardi di tonnellate di anidride carbonica vengono risparmiati, qual è il costo e qual è il risparmio. Cioè il risparmio è quasi sempre superiore al costo, cioè questa possibilità che noi abbiamo di invertire il corso del riscaldamento globale potrebbe anche addirittura farci risparmiare rispetto ai costi attuali. È stato creato un comitato di revisori di 120 persone, una comunità importante, diversificata di geologi, ingegneri, agronomi, politici, scrittori, climatologi, biologi, botanici, economisti, analisti finanziari, architetti, attivisti che hanno esaminato e convalidato il testo. Queste due soluzioni raccolte portano risultati economici rigenerativi, creano sicurezza, cioè oltre al discorso climatico, queste soluzioni studiate sono migliorative della vita di tutti quanti noi, addirittura producono posti di lavoro, migliorano la salute, fanno risparmiare denaro, facilitano la mobilità, eliminano la fame, prevengono. È un libro, insomma, diciamo, speriamo, ottimistico, impegnativo, ma comunque il fine è quello. Prevengono l'inquinamento, ripristinano il suolo, puliscono i fiumi e altro ancora. Questo è un esempio solo di soluzione. In atto quel numerino 76 è, diciamo, la soluzione non è delle più efficaci, è al 76esimo posto tra quelle presentate, e i numerini più sotto ci dicono per ogni soluzione quanti miliardi di tonnellate di anidride carbonica si possono risparmiare fino al 2050, quali sono i costi e quali sono i risparmi. In genere sono i risparmi superiori al costo, non sempre ma molto spesso. E queste sono tutte le soluzioni trovate nei vari campi, quelli che mi dicevi prima, che sì, chiedevi, sì. Cioè, tutti i temi che sono sempre stati abbiano lasciato, sì, cioè, sì. L'energia, l'alimentazione, l'uso del suolo, gli edifici, le città, i trasporti. Ecco, riguardo ai trasporti, no? Si sa benissimo, adesso qui interviene anche quello che è di constatare il peso della volontà politica nell'attuazione di un miglioramento di quello che ci si propone, perché se non c'è una volontà politica, che non so se lei è d'accordo, mi pare che è piuttosto latitante, no? Per esempio, i trasporti in Italia avvengono sempre su ruota, su gomma, insomma, quindi incidono sulle strade, su questo disastro che c'è nelle strade, che non so come andrà a finire se continua ad aumentare così. Perché non c'è una volontà di responsabilizzare i governi, almeno in Italia, di trasportare almeno una parte, cominciare a fare i trasporti su ruota, su rotativa, insomma, su treno o su altre mezze. Questo è importante, non se ne parla mai, però è giusto... Scusi, se ne parla parecchio, se leva in stazione, vede di quei treni pieni di vagoni che è inimmaginabile, 70-80... Non abbastanza, perché sì, se no, lei va... Io sono a Cortina in mezzo alle Dolomiti. Volevo dire una cosa, questo libro, che adesso ho capito il significato, da quando è uscito questo libro? Quindi in Italia, dice. Sì, in Italia oppure in Italia qualche mese fa, in America nel 2018. Sì. Dunque sono 8 anni che io sono andato in pensione e leggo le scienze. E questi problemi così drammatici 8 anni fa già c'erano congressi, già avevano parlato, eccetera, eccetera. E arriviamo che allora, leggendo su scienze questi problemi, ne davano una scadenza dove la scadenza non c'è più ritorno. In maniera drammatica, quando si sciolgono sopra i ghiacci, eccetera, le correnti che attraversano tutta l'Europa, sopra l'Inghilterra, non ci sono più, sono tutte girate. Quindi in una maniera talmente drammatica che io dicevo, ma come fanno queste persone che sanno così tanto e così geniali, non hanno nemmeno capito come dare informazione in maniera altrettanto drammatica? E adesso questo libro che io sono venuto qui, pensavo che uno dice, ecco, ha trovato le soluzioni, ma soprattutto politiche, perché queste riunioni, eccetera, ma ci sono già state. Certo, bellissimo, perché trovano tante cose, ma già 8 anni fa parlavano di una foglia che poteva tirare l'ossigeno, una cosa meccanica, e quindi robe eccezionali, come abbiamo sentito. Però guardate che voi avete, a me, l'impressione, come dire, se siamo bravini, tutti quanti fai il loro dovere, vedrai che quella cosa va bene. No, allora, no, però allora, due cose, no, è giustissimo, non è giusto. Pensavo proprio di 40 anni che sento questa roba. No, sono 40 anni, che è diverso. No, io lei da detto, ma... è solo da 8 anni che me l'hai detto. Sì, è vero, però ho visto anche in ritardo probabilmente. Intanto questa era la foto di Macron che ha provato a fare qualcosa per modificare, diciamo, il tipo di carburanti che usiamo, e ha messo un po' di tasse per cercare di spostare, e ha avuto i gilet gialli come reazione. Purtroppo le tasse non sono una soluzione, infatti l'ha capito anche lui. Sul discorso invece del cosa dovrebbe fare la politica, abbiamo visto che perlomeno hanno messo una firma, ecco, mettiamola così, ad Assisi, su spinta dei frati, dei francescani, però diciamo che adesso c'ho anche qualche altra diapositiva, nel senso da dove deve partire un po' la possibilità che queste soluzioni, perché questo è lui Bolocchen, se poi le capita di leggere il libro, nella sua spiegazione spiega perché ha fatto questo libro, perché lui ha chiesto già 15 anni prima, esiste un elenco delle soluzioni possibili, lui ha chiamato la lista della spesa, tutti gli hanno detto di no, allora ha detto lo faccio io, quindi questo è il primo libro che mette insieme tutte le possibili soluzioni ad alto livello. Dopodiché, quello che si può fare a livello politico, esiste appunto un'enciclica ripresa 5 anni fa, ripresa in California, e adesso posso anche leggere qual era stata la presentazione di Bolocchen dell'enciclica. Esiste una volontà appunto diciamo politica espressa un mese fa ad Assisi, e c'erano i numeri uno dell'economia italiana e il Presidente del Consiglio, c'era anche il nostro commissario in Europa Gentiloni, c'era anche il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli. Quindi c'è stata la Merkel, che per esempio hanno fatto in Germania a proposito di cambiamenti delle cose. Stanno cercando di smettere col carbone, non lo fanno i polacchi perché loro hanno solo quello e non hanno soldi. Trump è stato messo lì in America dalla lobby del carbone, quindi i problemi ci sono. In California comunque loro sono già molto avanti, loro arriveranno non nel 2050 ma nel 2030 al drawdown, perché hanno tutto convertito a solare eolico, per cui la macchina elettrica di Tesla, che adesso insomma se ne vedono parecchie anche qua, prende energia non dal carbone, in teoria, almeno lì, ma dal solare, dall'eolico o anche dalle maree, come diceva, vero? Certo. Il discorso, ci sono le maree in alcuni posti che vanno su e giù di parecchi metri, e quelle sono delle fonti di energia, cioè esistono le fonti di energia alternative. La politica non le mette in pratica banalmente perché è messa lì magari dai petrolieri che hanno i mali giornali, che per esempio attaccano la Greta Thunberg, che insomma, però al di là di questo ci sono stati movimenti, abbiamo visto tutti quanti per strada, di ragazzini se vogliamo, di studenti, che hanno consapevolezza e che quando vanno a casa magari dicono al papà petroliere, no, non so bene cosa, ma cerca di cambiare, riciclati un po', no? Non star sempre lì a inquinare perché ci stai rovinando il futuro, come dice la Greta. Quindi questa è una speranza, poi che possa funzionare lo speriamo tutti, ma io sono provato traducendo il libro, ecco, il motivo è stato questo. E se tutti quanti in qualche modo vogliamo come dire, contribuire, almeno ci proviamo, per dire ci abbiamo provato, ecco, non siamo rimasti lì a lamentarci del politico. È una notizia in una maniera che tutti adesso non possono dire di non sapere, per fortuna, dopo tanto tempo. Sì. Quindi adesso abbiamo capito. Ecco, è importante, sì. Può darsi che cambi qualcosa, perché poi alla fine dei conti. Un po' alla volta. Sì, ma questa storia anche della Bibbia. Guardi che la Bibbia c'è sempre stata lì, ma le guerre le abbiamo sempre fatte. Quindi voglio dire, è un po'. Cioè, forse perché mi aspettavo altre cose, magari che oltre all'Europa che adesso ha finanziato questi miliardi, che è una cosa importantissima, e magari ecco il libro poteva aggiungere anche altre parti. Abbiamo visto adesso la Cina, io adesso ho visto lì queste città verdi che effettivamente incoraggia molto. Incoraggia, loro sono messi male, lo sappiamo anche ultimamente, anche prima con l'inquinamento, però in Cina si sono vendute 30 milioni di bici elettriche. Cioè, hanno capito che non possono andare avanti in quella maniera, quindi ci stanno provando, ecco. Se però continuano ad andare a carbone è la cosa difficile. Se cominciano invece a produrre, come lo fanno già, pannelli solari a basso costo, poi il discorso della foglia che le diceva, la foglia artificiale, cioè, ve la faccio vedere se vuole. Questi sono, diciamo, questi sono tre scenari possibili in base se diciamo riusciamo in qualche modo noi politici insomma a fare qualcosa di efficace, più o meno efficace. Si parte diciamo spostato al 2050, dalla possibilità di risparmiare al 2050 mille miliardi di tonnellate di anidride carbonica, detto lo scenario plausibile, oppure potrebbero essere 1400 lo scenario drawdown, o lo scenario ottimale 1600, e in quel caso intanto possiamo ricominciare a riportare indietro l'anidride carbonica, che ha una grossa componente del riscaldamento globale. Quindi lo studio è stato fatto, è chiaro che sta a tutti quanti noi cercare di metterlo in pratica. Questo signore è un premio Nobel messicano che ha scoperto, diciamo, l'azione dei clorofluorocarburi sul buco dell'ozono. Ecco, questa per esempio è, diciamo, un parco eolico, ne ha fatto uno la Lego, quella dei mattoncini, che adesso non fa più i mattoncini in plastica ma li fa in materiale riciclabile, e ne ha fatto uno a largo dell'Inghilterra, di questi parchi eolici, che da solo riesce a dare elettricità a tutta la città di Bristol. Quindi è soltanto una questione di scelte politiche. Se dal basso, a cominciare dai ragazzini che sono arrabbiati, si riesce a far cambiare insomma politica, la cosa può andare avanti, quindi possiamo essere ottimisti. Al terzo posto c'è riduzione degli sprechi di cibo, e c'è appunto nella una delle prefazioni quella del professor Segretti di Bologna, che ha istituito una giornata nazionale, che è stata il 5 febbraio, contro gli sprechi di cibo, e quindi qualcosa si fa. È stato qualcosa, se ne è parlato parecchio, ho visto nelle varie TV, eccetera. Poi la dieta vegetariana, purtroppo mangiare la carne inquina, c'è poco da fare. E questo, faccio una rassegna veloce delle varie, questi sono i titoli, non solo, poi nel libro ci sono dedicate una o due pagine a ciascuna soluzione, ma sul sito ogni soluzione viene studiata e ampliata, e non solo, ma tutti possono contribuire a modificarla e a migliorarla. Quindi il progetto mondiale, che in qualche modo è un progetto vivo, nel senso non è fermo al 2018, è attuale, è sempre in qualche maniera rinnovato. La pianificazione familiare, passo velocemente perché sono tutti, diciamo, titoli così, delle soluzioni. Questo, ripristino delle terre agricole al 23° posto, per esempio, l'irrigazione agricola, come modificarla, coltivazione del riso, il compostaggio, molte cose riguardano l'agricoltura, che purtroppo sappiamo che, insomma, soprattutto nell'agricoltura intensiva si usa tutt'altro, si usano i pesticidi, il famoso glifosato che fa male, invece di studiare sistemi molto più naturali e più salutari anche. Quindi sistemi forestali multistrati, agricoltura conservativa, faccio velocemente perché non si può chiaramente parlare. Le soluzioni per ogni argomento che lei sta dicendo adesso, sì, del libro, date spiegazioni. Certo, ogni capitolo, uno poi dice, vabbè, mi interessa sapere sui treni, cioè non capito, allora legge quella paginetta lì. Come dicevo, quindi negli Stati Uniti, già nelle scuole, quindi se si parte perché il linguaggio è sia scientifico ma anche abbastanza abbordabile, abbastanza anche facile da leggere. È stato fatto uno sforzo in quel senso. Qui abbiamo la protezione delle foreste. Questo signore ha fermato il deserto, lui ha piantato, non da solo, penso, comunque con l'aiuto di altre persone, 200 milioni di alberi, e ha bloccato il deserto nel Burkina Faso. Gestione dei territori dei popoli indigeni, chiaramente lì sappiamo quello che sta succedendo in Amazzonia, rimboschimento, ne abbiamo parlato, telepresenza, cioè fare, diciamo così, le famose conferenze, quelle di lavoro, non, senza recarsi per forza con gli aerei molto inquinanti in giro per il mondo, insomma, cercare di limitare i treni, ecco, il trasporto a alta velocità, questo è un treno, non so, velocissimo, sarà californiano, ma anche gli aerei, sono aerei sempre più leggeri, consumano sempre meno, cioè ci vuole un'attenzione al fatto, insomma, che noi abbiamo, sembra, ha detto la maggior parte, il 99% degli scienziati, abbiamo riscaldato l'atmosfera. Queste sono le limitazioni che dicevo prima. Perché sì, tu per terra hai questi pannelli solari che danno energia. E quindi non hai bisogno di spazio. Gli edifici a impatto zero, cioè gli edifici che non hanno bisogno di energia, ma addirittura la producono perché hanno i pannelli e altre varie soluzioni. Edifici automatici. Ecco, questo è un tema. I tetti verdi, almeno io, quello che ho letto, e lo saprete meglio voi, penso, che Bolzano è la prima città in Italia che con una, non so, direttiva comunale ha imposto a tutte le nuove costruzioni di avere dei tetti verdi, cioè tetti che con sopra delle piante, che servono chiaramente a mitigare gli effetti del calore, ma anche in inverno, hanno una grande efficacia, e quindi Bolzano da questo punto di vista è in cima. Da quando? Io penso da sì, non è tantissimo. Quindi sai, allora bravissimi. Progetto che faranno la stazione. Ci ha sistemato per bene, ci stiamo lavorando anche perché ad esempio nella zona sud di Bolzano, ex industriale, ci sono circa 2 milioni di metri quadrati di tetti piani e quindi stiamo lavorando con la provincia, con le università per vedere di trovare i contributi anche per poter incentivare i tetti verdi proprio per questa enorme importanza. Grazie che l'ha accettato, perché è un tema che è del futuro, perché il tetto verde, oltre ad avere un microclima, poi creare un microclima favorevole anche per gli insetti e per tutti quelli che stanno sparendo, ma crea anche un benessere interno per chi ci lavora, per chi vive. E quindi, e poi può essere anche un momento di svago, perché possono andare i lavoratori sul tetto e nella pausa pranzo trovare un po'. Quindi questo è un progetto che secondo me è proprio per il futuro di Bolzano, che è già iniziato anni fa, anche dalla provincia, non solo dal comune, e poi un po' era un po' fermato, diciamo. E adesso c'è di nuovo un impulso. Di quanti metri quadrati, diceva? Solo nella zona sud di Bolzano, che è la zona industriale che durante il fascismo è stata italianizzata e che rappresenta circa un terzo della superficie di Bolzano, ci sono circa 2 milioni di metri quadrati che sono quasi piani, con un massimo di pendenza del 2%. E quindi sono molto adatti a riconvertirli in tetti verdi. E ci stiamo già lavorando. Ecco. Grazie, complimenti. No, grazie per lo spunto. Va bene, quindi passo velocemente perché ho messo solo alcune, costruire con il legno, adesso fanno questi grattacieli di legno, vabbè. Poi è facile perché abbiamo una tradizione di lavorare il legno, no? Quindi certo, nelle certo. nostre zone. Certo. Questo è un titolo, diciamo, un po' provocatorio, in realtà si parla non di riportare i mammut, ma gli erbivori, ecco, per ripristinare, sì, perché servono a mantenere tipo in Siberia, insomma, il permafrost che non si sciolga, cioè, agricoltura microbica, anche questo è il futuro, cioè, per spiegare come funzionano le piante senza dover sempre intervenire con diserbanti o con cimi vari. Permacultura marina, una cosa anche questa particolare, è la foglia artificiale che diceva, cioè tutti gli argomenti. Questo, a proposito di trasporti, questo è l'iperloop, sarebbe un tubo sottovuoto, no? In cui sono delle navicelle attraverso le quali vengono quasi sparati, insomma, questi moduli, che raggiungono anche 1000 km. Allora, se il solito Elon Musk, il proprietario della Tesla, lo sta facendo in California, ma sembra che anche in Italia, tra Padova e Vicenza, si stia progettando un qualcosa del genere. Poi c'è la fusione nucleare. Ecco, questo è solo uno schemino per spiegare come per ogni soluzione il lavoro che è stato fatto, cioè tutti sul libro adesso troviamo tutto questo discorso, tutte le sul libro c'è tutto questo discorso. Comunque pian piano si sta uscendo da quella gabbia che aveva prima, ancora adesso c'è, che il globalismo ha portato a produrre sempre di più, e quindi per produrre di più, sempre di più, non si guardava la qualità e si adoperavano i diserbanti chimici, eccetera, no? E anche riguardo all'energia, tanto che, se avete notato, è molto citato Tesla, no? E se pensiamo che Tesla è quello scienziato che è stato ammazzato perché aveva scoperto una cosa sull'energia elettrica che non costava niente, proprio per frenare quello e portarci a consumare dove guadagnava qualcun altro. Quindi almeno adesso vanno avanti questi progetti che invece guardano all'efficienza del servizio e di quella che è questo concetto che è stato molto ribadito, che la natura e il nostro mondo, non solo noi, deve essere ritenuto come un essere vivente. Certo, non come ha detto Nader Bhutto. Certo, ecco. Certo, sì, bisogna mantenere un equilibrio. Un equilibrio. Almeno Adesso io direi se il professore ha finito, dottore. Io dottore, e apriamo il dibattito se avete delle domande, delle curiosità, anche voi, le ascoltiamo volentieri e possiamo approfondire qualche altro aspetto. Sentiamo, senta. Volevo solo chiedere una cosa riguardo all'aumento demografico. Aspetti che le do. No, non serve. All'aumento della popolazione mondiale, siccome le previsioni sono per grossi numeri, e qualcuno aveva detto, mi sembra Langer, aveva detto che una terra finita non può contenere un'infinità di persone, insomma, perché lo spazio è quello. Volevo sapere, insomma, se ci sono delle... anche su questo libro delle prospettive si è vista prima una diapositiva adesso sulla pianificazione familiare, cioè quello che si è detto molto semplicemente è questo: se si considera che la popolazione dell'Africa potrebbe raddoppiare nei prossimi 30 anni, ecco, quello che bisogna fare per la pianificazione familiare è istruire, e come soluzione penso che fosse al quarto o quinto posto fra le 80 soluzioni, e dare alle donne in Africa i mezzi per poter arrivare ad una procreazione consapevole, perché altrimenti non c'è un limite, non c'è una regola, e si calcola nel libro cosa bisogna fare e anche quanto sarebbe il costo, ma non si parla chiaramente di interventi, insomma, violenti, ma soft, se vogliamo, perché il problema esiste, certo. Tra l'altro, a proposito, ho parlato di Langer, qui ne possiamo parlare, perché lui ha detto una frase che è rimasta molto, vera, cioè che la soluzione ai problemi ambientali si troverà quando la cosa sarà socialmente accettata. Ecco, probabilmente questo è il momento, perché abbiamo visto che i cambiamenti climatici interessano tutti e ci colpiscono, ora senza andare a parlare, non so, della tempesta Vaia, in California sono bruciati tanti boschi quanti ne abbiamo in Italia, quindi è come se tutti i boschi d'Italia fossero andati a fuoco. Sarà un caso, qualcuno ci ha messo, magari è andato lì ad appiccare, però c'era una siccità che durava da mesi, e da altre parti ci sono le alluvioni, come diceva il signore, la corrente del Golfo, se si inverte, per noi insomma ci rimangono poche speranze, e quindi abbiamo anche fretta di fare qualcosa, e il libro è stato, che io sappia, anche recepito proprio a livello europeo, cioè c'è una dirigente dell'ISPRA, che è l'istituto italiano che si occupa appunto della programmazione a livello di quelle che sono le soluzioni per l'ambiente, che mi spiegava che nelle loro riunioni parlano di trovare un sistema comune europeo a partire dalle scuole per educare all'ambientalismo, a far sì che cambi proprio la nostra prospettiva, il nostro approccio a tutte le varie situazioni. Ecco. Comunque il problema esiste. Comunque, scusa, quello che sta dicendo... È una ragazza che ha chiesto la parola. Scusa. Senti che le do il microfono, se no non sentiamo. Ci vuole un po'. La voce non si può. E allora, io ho una domanda di stampo tecnico, cioè volevo capire, quando il dottore parla di classificazione, primo, secondo, terzo posto, significa che in base alla... a questa classificazione l'impatto che ha sul drawdown, sì. Cioè quanto è efficace per poter sì. arrivare a quel risultato. Sì, il numero uno era appunto i clorofluorocarburi, e idrocarburi sarebbe la soluzione. direzione, diciamo, principale per arrivarci. Principale per arrivarci, sì. E le altre due, giusto per avere... Le altre due erano lo spreco alimentare con base alimentare, la dieta vegetariana. Ecco, lo studio mondiale ha portato a questo, quindi è chiaro che a quel punto dovremmo, come dire, anche noi un po' imporci, non so, un minore consumo di carne, chi ha capito proprio non ne può fare a meno, perché così purtroppo un grosso contributo lo danno grandi allevamenti, specialmente se poi per fare allevamenti di carne bovina si distruggono le foreste, allora siamo un disastro, ma è chiaro che il problema c'è. Invece guardando il sommario mi hanno attirato due punti, uno perché preoccuparsi, e l'altro era una mucca a spasso sulla spiaggia. Se può dire due parole su questi due, non so se... Ecco, il sommario del... Ha letto il sommario. Sì, quando ho presentato il sommario ho visto perché preoccuparsi. Adesso è difficile tornare indietro. Comunque, perché preoccuparsi ne abbiamo parlato un po' finora, nel senso, qualcosa sta cambiando e finora negli ultimi... Infatti, io adesso qui posso. Questa è la presentazione che fa Paul Hawken dell'enciclica del Papa, che è la cosa che mi ha colpito quando ho visto il libro, cioè che qualcuno in California citasse l'enciclica fatta 5 anni fa da Papa Francesco, e di cui si parla abbastanza poco, tranne ultimamente appunto ad Assisi, e quindi abbia anche per questo, insomma, ho voluto fare questa sua opera, preoccuparsi perché evidentemente la situazione può sfuggire al nostro controllo, insomma. Dopodiché, secondo alcuni abbiamo già superato quel momento, secondo altri possiamo ancora fare qualcosa, ma insomma, purtroppo, insomma, la problematica esiste e forse nessuno sa cosa può succedere. Ecco, sinceramente non è che i cambiamenti climatici, siccità, eccetera, però è vero anche che ultimamente ne vediamo un po' troppi di cambiamenti. 20 gradi al Polo Sud non ci sono mai stati, c'è poco da fare, quindi gli orsi polari non sanno dove recuperare del cibo, i pinguini hanno difficoltà, ecco. Cioè, forse noi ce ne accorgiamo meno, ma evidentemente il problema c'è. Sono sincero, sulla mucca, sulla spiaggia, non mi ricordo, mi ricordo proprio il soggetto, però a questo punto bisogna comprare il libro per leggerlo, perché non mi ricordo il motivo. C'è una foto. Vediamo un po' se la troviamo. Beh, lasciamola come curiosità di chi acquista il libro. Ah, vediamo nell'indice, no, vediamo l'indice, perché è giusto qua. Allora, si ricorda dove? No. In basso? Era in basso a destra. Una mucca è presente sulla spiaggia. Pagina 202, lo vediamo subito, perché... Allora, vediamo. Perché interessa anche a me questo punto. 202. Ecco qua. Ecco qua. Allora... Guarda, tre sacchedine, adesso mi spiega, perché ne sa quanto me, perché io faccio tutt'altro. No? Quindi, cosa dice di bello? Non so. Tante mucche sulla spiaggia ci sono qua. Ma parla del foraggio dell'Islanda, che sono utilizzate come mangime per il bestiame da migliaia di anni, ecco. Comunque... La cosa paventosa, cosa mangia una mucca, la superficie che ha a disposizione per fare quella carne, produrre quel latte. Probabilmente fa riferimento. No, se bisognerebbe tornare agli allevamenti naturali, ma la produzione ormai vuole fare certi numeri e così anche la vendita vuole essere sempre globalizzata. È la globalizzazione che ci ha portato alla rovina. Non c'è niente da fare. Tornare indietro è molto difficile. Si tornerà, dice, ho sentito da qualcuno qui, se i consumi della carne diminuiscono. Io non ci credo, perché se diminuiscono da una parte magari aumentano dall'altra. L'importante è che i governi e la volontà politica che deve, adesso non si può fare i conti di tutto se non teniamo presente la volontà politica. La volontà politica deve intervenire, proibire certe produzioni, proibire certi concimi, certi additivi ai nutrimenti degli animali che voi sapete li danno per fare più massa in minor tempo possibile e noi mangiamo le cose piene di veleni. Ecco. Ma sono i consumatori che fanno, diciamo, che decidono cosa poi verrà prodotto. Perché se i consumatori si orientano da un certo... Ma se il consumatore conosce e si informa, non va più a comprare certa roba, certa robaccia. E ecco perché noi culturalmente è la cultura che sa, è la bellezza che salverà il mondo, vuol dire questo. Dobbiamo conoscere, ecco perché è importante leggere questo libro, è importante che noi lo spieghiamo e lo promuoviamo, perché se quando la gente conosce queste problematiche non farà più delle scelte globalizzate. Almeno io lo penso così, non so. Comunque ho trovato il punto, se vuoi. Volevo dire una cosa, tutti questi bei discorsi, certo che sono bei discorsi. Guardi, l'uomo è una brutta bestia e da lì non usciremo mai. Invece l'unica speranza da quello che è venuto oggi, se poi prenderò il libro e leggerò eccetera, è il fatto che se l'economia è impostata in modo tale che può sconfiggere quello che è l'uso del carbone o l'uso di un petrolio, quello ci salverà solo se sarà un fatto economico, per il resto noi siamo destinati. Se volete prima di andare via dare un'occhiata al libro, il libro pur essendo così grosso, così grande, viene solo 25 euro. Ecco, sulle mucche sulle spiagge, perché alle Hawaii si danno le alghe da mangiare alle mucche, e qui dice nella Hawaii è chiamato limukou, che significa alga gradevole, ed è usato come condimento per il pesce crudo. Se somministrata ai ruminanti in tutto il mondo, migliorerebbe la produttività e ridurrebbe la quantità di soia, mais ed erba necessarie come mangimi, e quindi l'impatto dell'agricoltura sulla terra. Più significativamente, la Asparagopsis taxiformis potrebbe ridurre drasticamente le emissioni di metano del bestiame, che ora rappresentano dal 6 al 7% dei gas serra rilasciati in tutto il mondo. Queste sono, si chiamano, anteprime del futuro, cioè delle soluzioni futuribili, però insomma, ci dà sempre un'indicazione, questo è il motivo, meno che poi dimenticato. E quindi questo appunto è il messaggio di Bolocken, la visione che dà Bolocken dell'enciclica del Papa, e dice appunto migliaia di libri e articoli sul tema del cambiamento climatico negli ultimi 40 anni, lei ne ha letti molti, quindi lo saprà. Tuttavia, quando Papa Francesco è scritto sulla cura della casa comune, detta l'enciclica sull'ambiente, è stato come se fosse stato sollevato un velo dal linguaggio che tendeva ad oscurare la realtà. Al problema scientifico del riscaldamento globale, quando è stata data una dimensione pienamente umana, premurosa e attenta. Noto sia un messaggio dalla Chiesa, eccetera, eccetera, e che è stato visto il riscaldamento globale come una questione morale universale, non solo come un problema ambientale. Quindi, leggo solo questo passaggio veloce dell'enciclica. Lasciare un pianeta abitabile per le generazioni future è innanzitutto un nostro dovere. Il problema ci coinvolge drammaticamente ed ha a che fare con il senso ultimo della nostra permanenza terrena. Vabbè, poi ci sono le varie prefazioni, questa sfida di Stefano Boeri, la sfida ambientale porta con sé la consapevolezza che il mondo che potremmo costruire potrà essere migliore, più equo e più bello. E dice lui, il titolo della sua presentazione, tutto subito e tutti insieme, quello che sì. Non avevi prima. Insomma, è un auspicio, hai capito? Cioè, poi non siamo bravi, pazienza. Infatti, se non siamo bravi, quello che può succedere è questo. Vabbè, questa è la presentazione di Vincenzo Bazzani, e tra l'altro è un quasi premio Nobel di Bologna, che dice che la Terra è un'astronave è tutto per speciale, perché non potrà mai atterrare da nessuna parte. A proposito dei discorsi del consumo, appunto, non potrà mai attraccare nessun porto per fare rifornimento o scaricare i rifiuti. E dice. se questo TED libro Drawdown ci dà un piano di azione scientificamente corretto, praticabile e molto dettagliato per frenare il riscaldamento globale e salvare il pianeta. Questa è la Susie Blady, che è stata dall'inizio un fan del libro, e dice che questo libro è necessario, dovrebbe essere adottato nelle scuole come modello sussidiario, ma la cosa più entusiasmante che succede leggendolo è l'immagine che ci facciamo di come potrebbe essere il mondo con questa prospettiva, un mondo verde, pulito, dove varrà la pena di vivere. Queste sono frasi prese dalla presentazione, appunto, questa è quella del Nader Butto. È arrivato il tempo di una trasformazione, di un passaggio verso una visione olistica che consideri la Terra come un organismo vivente. Tutti dobbiamo agire in modo da mantenere il suo stato di omeostasi, permettendogli di funzionare in pieno ordine con le minime spese energetiche. Questo è Michele Lanzi, che diciamo che è direttore del Museo di Trento. L'umanità ha bisogno di una nuova storia ed è necessario che tutti riflettano su questo aspetto e ne traggano nei loro rispettivi ambiti lo stimolo all'azione. È urgente. E questo è Andrea Segre, appunto, che ha fatto parecchie, insomma, iniziative che vanno nella direzione giusta. Quindi, nel 97 la Conferenza Generale delle Nazioni Unite adottava la Parigi Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future. Il punto è dare la realizzazione concreta a questa dichiarazione. E quindi qui dice Polo che è una cosa bella, secondo me, che volevamo affascinare e sorprendere, presentare le soluzioni del riscaldamento globale in un modo nuovo, con l'obiettivo di aiutare a tessere i fili e le reti dell'umanità in una massa coerente e più efficace di persone in grado di accelerare i progressi verso l'inversione dei cambiamenti climatici. Quindi è un auspicio. E questo è quello che potrebbe succedere se non seguiamo le indicazioni di Pollock. Questi sono alcuni titoli in inglese, alcuni matematici predicono la sesta estinzione di massa, la soglia della catastrofe del pianeta Terra, professori del MIT, Massachusetts Institute of Technology, che è l'istituto tecnologico scientifico più avanzato del pianeta, mentre riguarda l'umanità, che è indirizzata verso un'estinzione, una possibile estinzione di massa. Questo è il titolo dell'articolo, ci stiamo indirizzati verso la sesta estinzione, firmato da 8 scienziati del MIT, e si dice che la stabilità della vita sulla Terra dipende dai cicli del carbonio, che a loro volta dipendono dai sistemi microbici, dei ecosistemi microbici che sono scarsamente conosciuti. Questa è una persona che ha fatto tantissimo, anche se ci sono dei detrattori che secondo me sono pagati dai petrolieri, sì. E quindi ha fatto sì che tutti, almeno quelli, non solo quelli della sua generazione, ma anche molte volte adulti, sono scesi in piazza nei famosi Friday for Future e disse: il nostro mondo va a fuoco, quindi facciamo qualcosa. E qui abbiamo, questa è la mia idea chiaramente, due persone che hanno fatto qualcosa di si sono impegnate perlomeno, poi non ci si riuscirà, e quindi il Papa ha fatto l'enciclica e la Greta ha fatto, insomma, forse anche perché per le sue paure, perché lei è un ambientalista da quando aveva 8 anni, quindi non è dell'ultima ora. Questo assolutamente perché, diciamo, per una serie di combinazioni, ecco, il libro è arrivato all'ex ministro, che non c'è più, Fioramonti, che ha apprezzato e dice appunto congratulazioni per il livello di lavoro sviluppato di alto livello, quindi fa fatto piacere. E questo è il discorso appunto dell'educazione ambientale che dovrebbe andare nelle scuole, perché c'è un decreto in tal senso. Questa qui è un ex ministro, e, insomma, almeno possiamo provare a fare qualcosa. Questo è Bologhen, che ha il faccione appunto sorridente e ottimistico, e lui ci ha provato, noi ci abbiamo provato a tradurlo in italiano, e tutto qua. Sì, l'importante è che... Grazie a Massimo Brondisini, grazie a voi di essere stati qui presenti. Se le domande sono finite, c'è ancora qualche intervento? No? Allora ci avviciniamo al libro, potete guardarlo. Sono lì in vendita. Questi sono della libreria, credo, della biblioteca. Vi ringrazio, ringraziamo quelli che hanno promosso questo incontro e prendiamoci soprattutto la responsabilità, ognuno di noi, non di fermarci alle parole, ma di fare veramente qualcosa per dare la nostra collaborazione. Prima di tutto però ricordatelo, la conoscenza. Quindi è importante leggerlo questo libro e assumere quello che noi privatamente possiamo fare. Grazie e arrivederci. Grazie. La mettete in piedi col libro in mano? Dobbiamo fare foto insieme. È stata una bellissima cosa. Molto. E adesso poi si interroga, se il buono. Sì. Addirittura. Abbiamo provato, adesso ci stiamo riprovando, però sono tutti un po' preoccupati, adesso sarà una cosa che insomma, ci speriamo, ci proviamo, sappiamo che abbiamo provato. Insomma, adesso abbiamo un po' di speranza, anche molto di Fabio. Ciao.